Rádio Fujiko 103.100 FM. Via Marconi 40. Fin dal 1895 io ebbi la forte intuizione, direi quasi la visione chiara e sicura, che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze. Erasmus Plus. Come potete sentire dalle voci di sottofondo, siamo qui dalla sala municipale di Barcellos, siamo in attesa della vice sindaco che si chiama Armandina Saleio. Eccola qui, dovrebbe essere lei, vediamo una signora. Salve, buongiorno. Via Marconi 40, repórter Crossmediale, Barcelos, Portugal. Saúdo todos os ouvintes da rádio Fujiko, a partir de Barcelos, uma cidade que, de alguma forma, para os nossos jovens dirá muito, porque este intercâmbio permite também que os nossos jovens possam conhecer o vosso território. Um bem-haja por esta parceria e por este abraço fraterno. Grazie di nuovo. Aspettiamo il discorso ufficiale. Em nome do Sr. Presidente da Câmara Municipal e em meu nome, como vereadora e vice-presidente deste município, compete-me a mim dar as boas-vindas a todos aqueles que nos visitam hoje, turcos e italianos. Due regioni, dei paesi che non si dice molto. Non ha bisogno di grandi traduzioni, parla dei gruppi, quindi sta ricevendo ufficialmente le due delegazioni. Sono Ilaria e Elisa che fanno gli onori di casa per noi. Agradecer aos signores professores e aos coordenadores destes projetos esta vossa participação e esta possibilidade de levarem um bocadinho da nossa cultura até aos vossos povos e às vossas escolas. Partilharmos este interesse comum, que é o crescimento da comunidade e uma educação plena e que acompanha, em termos tecnológicos e em termos de desenvolvimento, a Europa. Está atualmente num crescimento superior à Europa, esta 40, quando formos a Itália. Sono Ilaria, vengo da Bologna e sono contenta di aver potuto usufruire della borsa Erasmus. Sono molto emozionata per questa cosa perché ho sempre visto l'Erasmus come una cosa per gli universitari e sono molto felice di averci potuto partecipare. Saluto la preside, la vicepreside e tutti i miei professori dell'indirizzo Aldrovandi Rubiani grafico. Ringrazio anche l'ideatore di questo progetto che è qui assieme a noi. Io invece sono Elisa, stesso progetto di Ilaria. Questo progetto si chiama Via Marconi 40, unisce due emittenti radiofoniche, una italiana e una portoghese. Questo stage ci permette di sperimentare una nuova figura professionale chiamata reporter crossmediale. Il reporter crossmediale mette insieme nuove vecchie tecnologie, sia dal punto di vista della comunicazione sia tecnicamente. Anche io come Ilaria ringrazio tutti i portoghesi per l'accoglienza. Nel fare i ringraziamenti si rischia sempre di dimenticare qualcuno. Saluto la professoressa Francesca e tutti gli altri italiani che sono qui in Portogallo con noi. Alessandro, il direttore di Radio Fujiko, ci aveva chiesto di notare le differenze fra l'istruzione italiana e quella portoghese. La cosa che mi ha colpito subito è stata il suono della campanella, perché non è un classico drin, ma è un pezzo di una musica classica che scandisce l'intervallo tra un'ora e l'altra e anche la ricreazione ha un altro suono. Oltre il suono della campanella mi ha colpito l'insegnamento prescolastico, che è quello non obbligatorio ed è riservato ai bambini dai 3 ai 6 anni. Nell'insegnamento prescolastico si stimolano i bambini a fare le lingue e anche ad avere un uso di memoria più approfondito, facendo anche conti a memoria. E c'è anche l'insegnamento fuori programma, che consiste nel sviluppare argomenti non programmati proposti dall'insegnante stesso o dagli alunni. E si chiamano fuori programma perché possono essere anche argomenti fuori dalla materia, con cui però abbiano delle attinenze. Nessun materiale scolastico viene fornito, ma si può anche acquistare all'interno della scuola. Infatti vi è anche un'apposita cartoleria interna alla scuola, che è molto fornita. Il Portogallo ha anche due principali sistemi di istruzione superiore, che sono il sistema universitario e il sistema politecnico. Il sistema universitario è composto da 13 pubbliche università ed è un istituto universitario pubblico e un'università pubblica aperta, e anche ci sono diverse università private e istituti universali. Poi c'è il sistema politecnico, che riguarda l'insegnamento e lo studio di diverse discipline tecniche e scientifiche, che ha un percorso a parte. Inoltre il Portogallo è anche parte del processo di Bologna, che mira a creare uno spazio europeo dell'istruzione superiore dal 2010. In Italia lo stage o l'alternanza scuola-lavoro sono da poco obbligatori per tutti gli indirizzi di studio. Qui in Portogallo lo sono già dal 1996, grazie ad uno specifico decreto legge. Qui in Portogallo l'alternanza si divide in due tipologie: l'alternanza formativa e l'alternanza lavorativa. L'alternanza formativa tratta in primis i corsi tecnologici a cui fanno parte i giovani che vogliono entrare nel lavoro e continuare negli studi appunto tecnologici. Poi c'è l'alternanza lavorativa, che è per i corsi professionali che conducono alla qualifica professionale e a una preparazione ad una professione specializzata o eventualmente al proseguimento degli studi. I corsi professionali si suddividono in formazione qualificata, e i corsi a cui partecipano devono rispondere alle caratteristiche e ai bisogni delle aziende. Per oggi è tutto, linea Bologna.